Il punto di Stefano Folli. Dice la presidente del Lazio, Renata Polverini, che è stata superata la soglia del ridicolo. Certo, nel senso che il Lazio è il buco nero, è la voragine in cui sprofonda quel che resta della credibilità di una classe dirigente, ma il ridicolo sarebbe ancora maggiore, anzi definitivo, se lei restasse ancora al suo posto dopo aver preannunciato in mille modi le dimissioni. Purtroppo la Polverini non può rivendicare la propria purezza rispetto a un sistema marcio. Ha aspettato troppo prima di fare qualche passo, prima di dissociarsi da quel sistema marcio e denunciare ciò che era ed è intollerabile. Oggi può fare solo quello che ha detto e ridetto, e cioè uscire di scena. Poi che la crisi del Lazio possa travolgere certi equilibri interni del PDL, del partito berlusconiano, è molto probabile, ma ormai quel partito, con i suoi assetti ormai un po' anacronistici, ha bisogno di un cambio di identità e di una rinascita che per adesso non si intravede.